falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. È una verità assoluta il fatto che i grandi successi vadano divisi e condivisi, perché tutte le volte che noi vediamo in televisione o da qualche parte o sui giornali qualcuno che sta avendo successo, in realtà dietro a questo successo c'è sempre un gruppo di lavoro, a volte c'è un'anima che sta veramente alle spalle di chi va a prendersi gli onori, ma che è assolutamente indispensabile. E se parliamo di anima, anche all'interno delle band ci sono delle persone che magari non salgono sul palco, oppure ci sono salite all'inizio e poi hanno deciso che potevano fare altro per rendersi utili e rendere grandi questa band. La band di cui stiamo parlando sono i Pooh. Oggi vi racconteremo la storia dell'uomo da cui la grande avventura Pooh ha avuto inizio, la storia di Valerio Negrini. Chi fermerà la musica, che è un manifesto della musica italiana, ed è una frase importante perché incarna il sogno di migliaia e migliaia di musicisti che ci hanno provato, che hanno deciso di dedicare la loro vita alla musica, mi auguro per esprimere se stessi, però certo quando arriva il successo è un valore aggiunto piacevole, l'importante è non cercarlo dal punto di vista interiore in maniera maniacale. Comunque, a volte qualcuno non ce l'ha fatta per mancanza di talento e altre volte perché magari è mancata, come dire, quella concomitanza astrale per cui a un certo punto sei nel posto giusto al momento giusto. E poi il successo bisogna mantenerlo, perché altrimenti si rischia, e oggi capita molto spesso, di essere una meteora che dura il tempo di un'estate o di un singolo. Probabilmente a queste e a tante altre cose deve aver pensato Valerio Negrini, classe 1946, Bologna. Valerio frequenta l'istituto interpreti, impara a parlare l'inglese, questo gli permette di apprezzare fino in fondo la musica che sta arrivando dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti. Siamo agli inizi degli anni 60, siamo nel pieno della Big Generation, della Swing in London, e lui è uno dei tanti ragazzi che hanno la passione della musica, suona la batteria nelle piccole orchestre e incontra un altro appassionato come lui che si chiama Valerio, anche lui, Valerio Bertoli. Insieme mettono insieme un gruppo che si chiama i Jaguars. Ho cominciato con qualche amico così trovato in giro a mettere su un gruppo con le chitarre, con quello che era più o meno, si prefigurava la band moderna di quei tempi. È sempre così, all'inizio quando suoni hai un amico del cuore che condivide i tuoi sogni, magari poi la vita ti divide, però rimane quello che tu ricordi con più affetto. Questo Valerio Bertoli è di Bologna, è di famiglia benestante, ha una nonna che stravede per lui, che gli compra una Fender Stratocaster, che insomma per quei tempi era veramente il massimo, era come ricevere una Jaguar in regalo dopo aver chiesto una 500 Jaguar. E il gruppo si chiama Jaguars, non è un gruppo che sa suonare benissimo, però fanno esperienza, hanno una strumentazione degna di un gruppo di successo, insomma iniziano le vicissitudini su e giù per la riviera romagnola, perché allora si suonava dal vivo per costruirsi un futuro, non si giocava la schedina in un talent show. Alla fine decidono di cambiare nome perché si sono ispirati a un personaggio dei cartoni animati che è Winnie the Pooh, e quindi nel 1966 nascono ufficialmente i Pooh. Vieni fuori, fuori dal mio cuore. Io mi chiedo ancora perché sei qui e ti ripeto amore. Oh yeah, va fuori dal mio cuore. Di me, non mi importa ciò che diranno. cover, è una cover della canzone Keep on Running dello Spencer Davis Group, in cui tra l'altro militava già un giovanissimo Steve Winwood, e si usava molto fare cover italiane di pezzi stranieri. Poi insomma c'è ancora, come dire, una linea editoriale da scegliere, e le canzoni insomma non sono ancora esattamente a fuoco. Poco dopo per esempio uscirà una canzone che si chiamava Brennero 66 sugli attentati in Alto Adige, quindi una canzone politica abbastanza anomala, insomma, che non si ripeterà più nel repertorio dei Pooh. Comunque, assieme ai due Valerio, Negrini e Bertoli, ci sono altri musicisti, si chiamano Costa e Cantelli, e poi, come sempre accade negli anni degli inizi, ci sono musicisti che entrano, escono dalla formazione, anche perché non tutti hanno la voglia di rischiare tutto quando hanno 20 anni, magari un genitore che ti spinge ad andare a fare l'università o a trovarti un posto in banca. Di tutti loro ce n'è uno però che ha ben chiaro quello che vuole fare, è Valerio. Per lui la musica è tutto, e la sua scelta è il primo di una serie di colpi d'ala che in qualche modo lo accompagneranno per tutta la sua carriera. Perché la musica era la padrona del mondo, ha cambiato il mondo, ha modificato il mondo. E c'era la meraviglia di iniziare a fare questo lavoro con la voglia di fare, di arrivare a fare qualcosa di importante. In quel periodo c'erano veramente milioni di gruppi che nascevano, morivano, c'erano migliaia di locali che nascevano, morivano, e questa è stata credo la nostra grandissima fortuna. Questo mestiere, lo diciamo sempre, si impara facendolo. E Roby Facchinetti ci conferma quanto gli anni 60 fossero anni di fermento culturale e quanto Bologna fosse una delle città in cui si potevano realizzare dei sogni. I Pooh hanno firmato per la Vedette, e che è la casa discografica dell'Equipe 84 di Maurizio Vandelli, gruppo che aveva già inanellato parecchi successi. A un certo punto l'Equipe rompe con la Vedette e passa alla Ricordi, e quindi i Pooh si trovano a diventare, come dire, testa di serie numero uno, il gruppo a cui dedicare tutti gli sforzi. Però prima bisogna che la formazione diventi qualcosa di più solido. Così una sera Negrini incontra un giovane tastierista bergamasco, si chiama Roby Facchinetti, gli chiede di entrare nel gruppo. Io suonavo in questo locale con un gruppo, l'Eco Pen di Pier Filippi, in questo locale di Bologna che si chiamava Lo Sporting, e venivano a suonare, a fare l'attrazione, quello era il concetto dell'epoca. I Pooh erano nati da due mesi, avevano appena fatto il primo 45 giri, e vennero lì, e alla fine della serata, della prima, una delle tre serate che loro poi avevano fatto in questo locale, alla fine verso l'una e mezza di notte, in una zona defilata del locale, e mi chiesero: senti, vorresti venire a suonare con noi? Sì, finito, basta, cioè, eccomi qua. Piccola Katie, stanotte bruciato tutti i ricordi del tuo passato, tutte le bambole con cui dormivi e il tuo diario che sempre riempivi solo con ciò che faceva piacere a chi di notte l'andava a vedere. Piccola Katie, oh, piccola Katie. Falco del Gabbiano. Stiamo raccontando tassello dopo tassello la nascita di quella che è da considerare la band più importante e longeva della storia della musica pop italiana. Siamo arrivati all'entrata di Roby Facchinetti, ma c'è un altro componente del gruppo storico dei Pooh che sta per fare il suo ingresso. Valerio Negrini ha un nuovo colpo d'ala, e siamo al Piper di Roma, che è il locale che è considerato da tutti il centro della musica beat italiana. Arrivarono i Pooh e dopo un po', dopo una settimana che ci conoscevamo, ci scrutavamo, mi chiesero se volevo diventare il loro bassista. E lì è cambiata la mia vita. E la voce è quella di Riccardo Fogli, che entra a far parte dei Pooh, e peraltro lui diventa subito quello più ambito dalle fan femmine, perché è quello più bello, ha il capello lungo, un bel sorriso, e la cosa non passa inosservata a Negrini, che racconta la storia di una ragazza. La storia in realtà è presa abbastanza pari pari da She's Living Home dei Beatles, la mitica canzone che c'era su Sgt. Pepper, cioè la storia di una ragazzina molto giovane che sta scappando di casa e per unirsi, insomma, per, come dire, l'accezione molto romantica, per unirsi a chissà quale gruppo di ragazzi meravigliosi che stavano per cambiare il mondo. La canzone è Piccola Katie, il successo è travolgente, si viene superato il milione di copie vendute e i Pooh cominciano a essere considerati un po' di più che una band promettente. Noi lo sappiamo benissimo, dovevamo veramente combattere fra migliaia, però era più facile fare questo lavoro, però è anche vero che era molto difficile arrivare al successo, perché dovevamo avere a che fare e comunque combattere con migliaia, migliaia, migliaia di artisti, di gruppi che nascevano come funghi continuamente. Eh sì, la scena italiana a cavallo degli anni 60 verso il 67-68 era veramente piena di gruppi. C'erano quelli che arrivavano dall'Inghilterra come i Rocks, come i Primitives guidati da Mal, e poi c'erano tantissimi gruppi italiani che scrivevano canzoni e che erano richieste dai discografici, quindi una concorrenza molto forte. Bisognava suonare bene e allora ci volevano dei grandi musicisti. Un grande musicista notato dagli altri dei Pooh e si chiamava Dodi Battaglia, e Dodi Battaglia viene chiamato a entrare nella band, e questo, come dire, aiuta a puntellare la carriera nascente dei Pooh in momenti in cui molti cantanti e molti musicisti dopo una o due canzoni erano costretti a eclissarsi nuovamente. Ci fu un periodo di grande crisi e io credo che fu la crisi forse più grossa, più importante dei Pooh a livello artistico e non, perché il successo di Piccola Katie ormai si era assolutamente spento. I Pooh fanno degli altri singoli, uno si chiamava Mary Ann per esempio, un'altra canzone un po' beat, però non riescono più a bissare il successo di Piccola Katie e sembra l'inizio del declino. Pensate quanto invece la storia si sarebbe ricreduta in questo momento, anche perché è il momento di arrivare a un nuovo produttore, a un produttore vero, uno che sappia trattare con le case discografiche e sappia coordinare il lavoro. E qui c'è un nuovo colpo d'ala, o se volete un colpo di fortuna, perché c'è un incontro tra i Pooh e uno dei più grandi produttori italiani di tutti i tempi, che si chiama Giancarlo Lucariello, e grazie a lui i Pooh approdano a una nuova casa discografica che è la mitica CBS, che poi diventerà molti anni dopo la Sony. Si presentano al Cantagiro con una nuova canzone scritta da Negrini. Si parla di un tradimento, cioè di un uomo che tradisce la moglie e successivamente ritorna a casa. Diciamo, facciamo Norwegian Wood dei Beatles, per dire. Comunque un tema non facilissimo per l'epoca, e che però funziona. I Pooh tornano in cima alle classifiche con Tanta voglia di lei. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti. Fra un minuto me ne andrò e non dici una parola. Sei più piccola che mai. In silenzio morderai le lenzuola. So che non perdonerai. Quelli delle nuove generazioni va spiegato che il Cantagiro era una manifestazione intanto più importante del Festival di Sanremo, ed era una manifestazione nella quale i cantanti a bordo di macchine scoperte si trasferivano da una città all'altra tra due ali di folla festante. Era un mondo nel quale tanto non c'era internet, non c'era niente di tutto questo, nel quale i cantanti erano assolutamente i divi incontrastati di un periodo storico ben preciso, quindi la gente attendeva ore solo per vedere passare per un secondo il Gianni Morandi della situazione, o il Massimo Ranero, la Rita Pavone, o i Pooh, che vincono il Cantagiro nella sezione complessi. E alla base di questo successo c'è un testo di Valerio Negrini molto efficace, perché riesce a dipingere come in un quadro un'idea astratta e peraltro un sentimento molto controverso. Lui suona la batteria in quel momento, però sta diventando sempre più importante la componente di autore, che sicuramente in lui è superiore che non la sua componente, diciamo, di strumentista. Come ricorda Facchinetti, Negrini era un uomo che io ho avuto il privilegio di conoscere, un uomo molto intelligente con un grande senso artistico. Era un ragazzo pieno anche lui di grande entusiasmo, voglia di grande passione per la musica, grande musicista, ma soprattutto grande poeta. In una parola riusciva a esprimere un concetto anche molto molto profondo. Questo è il grande valore, no, dell'autore, di un artista. Non era facile eguagliare o addirittura superare il successo di Tanta voglia di lei. Bene, i Pooh ci riescono, perché il singolo successivo ha un effetto devastante, è una delle canzoni a tutt'oggi, insomma, che caratterizzano il repertorio dei Pooh. E qui Valerio Negrini si supera con un testo che potrebbe essere, diciamo, la storia di un carcerato, la storia della funzione del pensiero che va al di là del corpo. Il titolo della canzone tratta comunque di un tema scottante, che viene affrontato però con molta poesia e molta disinvoltura, ce lo dice anche Dodi Battaglia. Valerio Negrini ha fatto dei successi popolarissimi con lo spirito del ribelle, e non è una cosa facile, perché mediamente chi fa i grandi successi si mette l'obiettivo giustamente di arrivare al grande pubblico, no, ed essere molto facile, no, cuore, amore, ti voglio bene, questa roba qua. Lui è sempre stato un ribelle, anche quando ha capito che scrivendo Piccola Katie o Tanta voglia di lei, le cose che arrivavano al pubblico si sarebbe arricchito. Lui ha continuato a fare il ribelle, lui ha continuato a fare delle cose straordinariamente diverse da quello che era la moda. I Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di una delle grandi anime di quello che è, possiamo definire, insomma, il gruppo più longevo e più prolifico della musica italiana, della musica pop italiana. È la storia di Valerio Negrini. Quasi tutte le grandi canzoni dei Pooh hanno la sua firma, perché Valerio Negrini è stato un grandissimo autore di testi, nella mia personalissima il parede è nella top 3-4, insomma, lui e Bigazzi, esclusi cantautori, cioè quelli che hanno dedicato la loro vita a scrivere canzoni per altri, lui e Bigazzi sono secondo me i più grandi. E per adesso Valerio Negrini è ancora sì l'autore dei testi dei Pooh, ma è ancora il batterista. Siamo nel 1971, i Pooh stanno vivendo un momento estremamente positivo, Tanta voglia di lei e Pensiero li hanno resi più solidi, incrollabili, tutto sta andando per il meglio. Però in quel momento di euforia il gruppo riceve una notizia inaspettata da uno dei suoi componenti, perché Valerio Negrini annuncia che vuole lasciare il suo posto di batterista all'interno del gruppo. Sinceramente molto doloroso per tutti noi, per me in maniera particolare, perché erano rimasti gli unici due che erano di Bologna, per cui quando si finivano le tournée si tornava a casa, si stava insieme, si andava al cinema insieme ed eravamo veramente amici per sempre. Questa è stata una scelta molto dolorosa per lui e anche per noi, perché lui praticamente ha abbandonato una parte di se stesso, che era proprio il fatto di suonare la batteria, che era la sua grande passione, per cambiare un po' strategia, cambiare un po' in un certo senso mestiere e dedicarsi a quello che dava a lui e anche a noi più soddisfazione. Ed è stato un momento molto brutto. Eh sì, una scelta molto particolare, molto delicata. Negrini si rende conto che non è un batterista in grado di reggere alle evoluzioni che il gruppo inevitabilmente stava per avviarsi ad avere, però per contro ha voglia di scrivere canzoni, di scrivere testi e magari di concentrarsi di più. Negrini era anche una persona particolare, riflessiva, tormentata, molto spiritosa, però comunque non una persona nata per i concerti, le serate, le fotografie, i riflettori. Era più uno che amava lavorare con la sua interiorità. Quindi il posto dei Pooh, il posto di batterista dei Pooh, è vacante. Al suo posto viene chiamato Stefano D'Orazio, che è un romano che suona la batteria in molte band, diciamo, del nascente progressive romano. Una di queste era Il Punto, è un rocchettaro e un altro belloccio con lo sguardo profondo e i capelli lunghi, perfetto per i Pooh. Mi venne rifilata l'idea che Valerio si fosse stancato e quant'altro. In realtà poi non era così, perché Valerio in quel momento era, come in effetti è sempre stato, no? Di una genialità incredibile, ma anche il meno addomesticabile. Un uomo non si addomestica, è autobiografico assolutamente, no? E in quel momento i Pooh avevano iniziato un tipo di itinerario con tanto di produttore che aveva in mente una linea ben precisa, no? Si ispirava molto più ai Bee Gees della situazione, quindi carini, puliti, eleganti e quant'altro, che non invece a un gruppo rock underground, come invece l'anima di Valerio pretendeva, no? Quindi Valerio era la pecora nera della situazione. Nel 1973 c'è un altro terremoto che scuote la vita artistica dei Pooh. È un terremoto di cui parlerà tutta l'Italia, sarà una storia al centro del gossip. Riccardo Fogli è in disaccordo con i componenti del gruppo. In realtà è stato distratto da una love story clamorosa con Patti Pravo, e soprattutto Patti Pravo lo convince che è il caso di intraprendere una carriera solista, nel senso che spesso le donne fanno così: sei tu il più grande, lasciali perdere quelli, perché senza di te chissà dove vanno, eccetera eccetera. Insomma, storie che hanno distrutto tantissimi gruppi. Si racconta che i bassisti per il provino, per sostituire Riccardo Fogli, ascoltati fossero 300. Non so se è vero, di certo c'è questo ragazzo che sta suonando la chitarra e cantando in un gruppo che si chiama Capsicum Red. È un altro super bello e si chiama Red Canzian, e in quel momento i Pooh acquisiscono, con l'entrata di Red Canzian, la loro formazione, diciamo quella più famosa, quella con cui hanno continuato per oltre 30 anni una carriera di successi. E poi c'è lui, il quinto Pooh, Valerio Negrini, che sforna i più grandi testi che si prestano alla, come dire, alla multinazionale Pooh. Grazie al cielo siamo riusciti, anche come è accaduto con Stefano e Riccardo, a lenire questi angoli, no? Smussare questi angoli e rimanere amici, collaboratori, e continuare ad andare a cena insieme ed avere con lui un rapporto come se lui fosse all'interno del gruppo, anche se n'era andato. Perché appunto questo è il motivo per cui molti hanno detto di lui che è il quinto Pooh. Spesso ci si incontrava quando si facevano i nuovi dischi, non stavamo noi a casa a fare le nuove musiche, poi a un certo punto incontravamo Valerio, ci si trovava prima, ci si riuniva e si diceva come potrebbe essere il tiro di questo nuovo progetto, di questa nuova avventura, e lui entrava nello specifico anche su quello che potrebbe essere una creatività della musica, che poi in ogni caso è sempre, nella nostra storia, mediamente è sempre stata la prima a nascere, ancora prima delle parole. Eh sì, e ci sono membri di una band che amano stare un po' lontani dai riflettori. Insomma, mi viene in mente Pete Sinfield, uno dei più grandi poeti del dopoguerra, uno dei più grandi autori di testi di canzoni, che era nei King Crimson, anche se non saliva sul palco con i King Crimson. E lui ha un ruolo importantissimo perché scrive i testi, però partecipa alla gestione delle musiche e diciamo a quella che è la linea editoriale. Lui continua a essere un grande autore che, anche se non si siede più dietro la batteria, sta con i Pooh mattina e sera. Noi autori siamo sempre alla ricerca della madre di tutte le canzoni, forse pensiamo sempre in fondo di esserci dimenticati di dire qualche cosa, ma i Pooh in tutti questi anni hanno già detto tutto di più. E poi Negrini è molto bravo ad affrontare con i suoi testi argomenti molto vari, da Canterò per te a Non siamo in pericolo, fino a canzoni invece più delicate, celeberrima per esempio Pierre, che tra i primi parla di un transessuale, no? Quindi in qualche modo affronta un tema assolutamente in anticipo con i tempi, ce lo ricorda anche Red. Valerio, per quello che era in realtà, non ha mai amato scrivere i 45 giri dei Pooh, cioè lui aveva la fortuna di essere anche commerciale, con canzoni e musiche estremamente popolari. Lui su Piccola Katie ha raccontato il discorso delle groupies che scappavano di casa per seguire le band, su Tanta voglia di lei ha parlato del tradimento, in un'epoca in cui non si parlava nelle canzoni di questo. Con Pensiero ha parlato di un carcerato, nel 76 ha parlato di omosessualità quando nessuno trattava questo argomento. Per cui ti dico, lui è su musiche che avevano tutta la struttura melodica e armonica per essere dei successi da hit parade, però lui dentro costruiva comunque qualcosa, una storia. La grande forza di Valerio Negrini era quella di avere una tecnica eccelsa nello scrivere testi, una grandissima umanità e anche una forza comunicativa incredibile. E una delle prove, per esempio, avviene nel 1990, l'anno in cui i Pooh sbarcano a Sanremo con una canzone molto particolare che racconta, diciamo, di varie tipologie maschili. È una canzone intensa, struggente anche nella musica, e la canzone, ovviamente avete capito, si chiama Uomini Soli, e i Pooh trionfano con una tra le canzoni che rimangono tra le più famose della musica italiana. Dio delle... gennaio del 2013 un infarto porta via Valerio Negrini dai suoi amici e da tutta la musica italiana. Valerio Negrini è un uomo che ha dedicato tutto alla musica e lo ha fatto osservando il mondo, imparando da ogni cosa. Era una persona di grande cultura personale, di grande garbo, di eleganza, di spirito, un uomo che in molte canzoni per esempio ha parlato di Dio pur dichiarandosi ateo, e mostrando malgrado questo una altissima spiritualità. Ha parlato dell'evoluzione della vita, per esempio me lo ricordo in studio quando io andai a cantare con i Pooh e insieme a Ramazzotti, a Raffa e a Tozzi una canzone che si chiamava Tu vivrai, e che ebbe mi colpì molto per la sua grande intensità. Si parlava del rapporto con la vita, col successo, insomma una persona di grandissima intensità spirituale. Abbiamo questo amico con un prete gesuita, per cui uno che ha una conoscenza straordinaria, e gli chiesero: ma com'è possibile che Valerio ateo e in 8 brani su 10 comunque la parola Dio c'è sempre? E lui dice: non c'è miglior credente di chi dice di non esserlo. È probabile. E poi le piccole cose. Negrini era bravissimo, come tutti quelli che sono bravi a scrivere testi di canzoni, a guardare qualcosa e leggerla con occhio particolare, trovare la poesia anche in dettagli che ai più sfuggono. un animo molto inquieto, che ha avuto anche lui una vita sentimentale e familiare molto intricata, che è stata un pochino la, come dire, la tradizione di tutti i miei amici Pooh. Aveva un fuoco vivo che riposava sotto le braccia e di tanto in tanto si autoalimentava grazie a una spiccatissima curiosità. Le cose migliori le ha fatte veramente sull'onda anche magari delle incazzature. No, lui amava molto quello che scriveva, come tutti, insomma, no? E si innamora poi e fagli cambiare comunque la parola, la strofa, e lo mettevi assolutamente in crisi per un fatto proprio di amore, e lui si litigava, però alla fine ci ascoltava. Magari dopo un'ora ti chiamava e diceva: vabbè, senti, bergamasco di merda, senti che cazzo ti ho scritto. Questo era il titolo. Da quel lontano 66 sono passati tanti anni. Nel 2016 saranno 50 e i Pooh festeggeranno i 50 anni di carriera con grandi concerti, sicuramente con un disco, un DVD celebrativo, insomma, sarà il loro modo, loro dicono, ma chissà se poi lo faranno veramente, di chiudere la loro carriera. Questo non farebbe piacere a tutti i fan che andranno a vederli da tutte le parti d'Italia. Per questo momento storico hanno deciso di riunirsi tutti, quindi ci saranno ovviamente Facchinetti, Battaglia, Red Canzian, ma tornerà Stefano D'Orazio, ci sarà addirittura anche Riccardo Fogli, che aveva ottenuto grandissime soddisfazioni come cantante e bassista dei Pooh. Tutti assieme ancora una volta per festeggiare un anniversario speciale, ma anche per rendere omaggio a un grande amico che se n'è andato troppo presto. Questo momento di grande reunion, se c'è una piccola spina nel cuore di tutti noi, e non soltanto di tutti noi, è l'assenza appunto di Valerio Negrini, che è stato per noi la vera colonna portante, è stato il fondatore dei Pooh, è stata la persona che, nonostante fosse schivo e avesse lasciato il gruppo molto timido, molto è sempre stato l'anima importante dei Pooh. E non so che cosa daremmo ognuno di noi per averlo qui con noi, però insomma sarà sicuramente con noi, perché ormai è nel nostro cuore, nel cuore di tutte le persone che hanno amato la nostra musica. Dietro ogni progetto straordinario ci sono sempre persone straordinarie. Valerio Negrini lo era dal punto di vista tecnico, creativo, umano, e abbiamo scelto di raccontare storie come queste. Se voi avete altre idee, se volete che noi ci racconti qualcosa che vi sta particolarmente a cuore, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, oppure venite a cercarmi sui miei social o sui nostri social, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Si può anche venire alle mani, poi dividersi gli ultimi spiccioli, non parlarsi più, non scordarsi mai. Gli amici ci riaprono gli occhi, si capiscono meglio di noi, e ti metto davanti agli specchi, anche quando non vuoi. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.